sento te, Gesù. Io sogno te, Gesù. Io guardo te, Gesù. Io cerco te, Gesù. Io sento te, Gesù. Io sogno te, Gesù. Io guardo te, Gesù. Sogno te, Gesù, io guardo te, Gesù.